Storie italiane. La storia di Atlanta. C'era una volta un re piuttosto sciocco che pensava che soli i ragazzi potevano governare un regno. Quindi, quando gli nacque una figlia, non la volle e la fece mettere tutta sola su una pietra, nella parte più profonda della foresta. All'inizio la bambina si divertì a giocare con le foglie e l'erba che cresceva attorno a lei, ma presto iniziò a sentirsi affamata e iniziò a piangere. Una mamma orsa, in una grotta lì vicino, la sentì e andò da lei con il suo cucciolo. Oh, che bambina carina! Poveretta, chi l'ha lasciata qui? Che tipo di orsa è questa, mamma? Non ne ho mai visto uno simile prima. Guarda le sue zampe, sono così diverse. Beh, è perché è un orso umano, caro. Lei mi piace. Possiamo farla stare con noi, mamma? Oh, sì, possiamo. Non la lascerai qui nella foresta sola e affamata nemmeno per un minuto. Come la chiameremo, mamma? La chiameremo Atlanta. Quindi la mamma orso portò Atlanta nella sua caverna e si prese cura di lei come una madre. Nessun altro animale nella foresta attaccò la bambina, perché la consideravano una di loro. Presto Atlanta crebbe fino a diventare un'ottima compagna di giochi per l'orso e per il resto degli animali. Correva con i ghepardi e correva anche più veloce. Saliva sugli alberi con le scimmie e si arrampicava più velocemente. Cacciava con i leoni e cacciava anche meglio. Atlanta era forte, impavida e saggia. Un giorno un gruppo di viaggiatori attraversò la foresta. Oh, sono stanco. Davvero? Quanto più lontano? Oh, oh! Bambina, che cosa fai da sola in questa fitta foresta? Non possiamo permetterle di rimanere qui. Dobbiamo portarla con noi. Vieni con noi. Vieni nel nostro villaggio e vivi con noi. Atlanta non capiva bene cosa stessero dicendo, ma era la prima volta che vedeva gli umani, quindi era curiosa. Li seguì fino al loro villaggio. Vieni, mia moglie sarà così felice di vederti. Ah. Maria, guarda che abbiamo trovato nella foresta. Una piccola bambina. Cosa stava facendo nella foresta? Come l'hai trovata? Cosa? Vieni qui, cara. Maria e John trattarono Atlanta come se fosse stata una specie di angelo. E Atlanta imparò cose affascinanti al villaggio. Tornò nella foresta e tornava al villaggio. Era come se avesse due famiglie. Una nella foresta con gli animali e una nel villaggio con John, Maria e altri umani. Passarono gli anni e Atlanta crebbe fino a diventare una fanciulla forte, potente, bella e più acuta e veloce che mai. Ora, mettiamo in pausa la storia di Atlanta per un po'. E andiamo a vedere un'altra terra. Un regno che apparteneva ad un re molto potente e molto nobile chiamato Onius. Vostra Altezza, quest'anno abbiamo avuto un enorme raccolto di uva e grano. I nostri granai traboccano di grano e i nostri frutteti sono carichi di frutta. Quest'anno la prosperità del nostro regno aumenterà di 100 volte. È tutto grazie alla benedizione degli angeli e degli spiriti della natura se abbiamo avuto un anno così ricco. Organizza una fiera nella quale vi sia un posto per ogni fata, angelo o spirito, e lascia che tutti portino il meglio del loro raccolto da offrire loro come ringraziamento e segno di gratitudine. Oh, padre, è un'idea così bella! Mi occuperò personalmente di tutte le disposizioni. Quindi tutti i cittadini del regno si riunirono con il loro principe e organizzarono una fiera davvero grandiosa nei campi e nei vigneti. Costruirono altari per tutte le fate, angeli e spiriti. Altare per Cerere, che aveva mostrato agli uomini come seminare il grano, e uno per Bacco, che aveva parlato loro dell'uva, e uno per Mercurio, dai piedi alati, che viene dalle nuvole, e uno per Atena, la regina dell'aria, e uno per il custode dei venti, uno per chi dona la luce, e uno per il re del mare, e uno che era... Misero i grappoli d'uva più grandi e il grano più fine in ciascuno degli altari. Alla fine accesero il fuoco e offrirono tutto alle fiamme, credendo che il fumo sarebbe salito fino al cielo, portando con sé i loro doni. Vi preghiamo di accettare la nostra sincera, umile gratitudine per le vostre benedizioni. Suonino i tamburi! Tutta la gente del regno tornò a casa con il cuore felice, pensando di aver compiaciuto tutte le fate, gli angeli e gli spiriti. Ma non l'avevano fatto. La gente di questo paese aveva dimenticato la fata Diana, la custode dei boschi. E Diana non ne era felice. Che insulto! Gli umani non si rendono conto che sono i boschi e le foreste che portano loro la generosità delle piogge. Preservano il limo e la fertilità delle loro terre. Come osano insultare le mie foreste e le loro creature così? Grande custode delle foreste, come vorresti punirli? Li puniremo. La pagheranno. Quella notte i cittadini del paese andarono a letto pacificamente. Non sapevano del caos che stava per arrivare da loro. Cos'era quello? Non ho mai sentito nulla di così devastante. Tutti gli abitanti del villaggio uscirono dalle loro case con torce di fuoco e cosa videro? Una creatura così terribile come non avevano mai visto prima. Cercarono di spaventarlo con le torce, ma questo lo rese ancora più arrabbiato. Corse selvaggiamente tra i campi, strappando il raccolto appena tagliato, distruggendolo. Saltò senza pietà sui sacchi d'uva, distruggendo il raccolto. Gli abitanti del villaggio erano inorriditi. Andarono dal re. Sua maestà, una terribile creatura sta devastando tutti i nostri campi e frutteti. Creatura? Sembra un cinghiale, ma non lo è. Il raccolto abbondante che abbiamo avuto quest'anno è quasi tutto distrutto. Se non fermiamo presto questa creatura, perderemo tutto. Questo dopo che le fate, gli angeli e gli spiriti sono stati così gentili con noi, Vostra Altezza? Nella fiera, quando abbiamo costruito altari per fate, angeli e spiriti, dobbiamo aver dimenticato qualcuno. Il re esaminò l'elenco degli spiriti, fate e angeli. Abbiamo scordato il custode dei boschi. Siamo così ossessionati dai nostri campi e frutteti che abbiamo dimenticato l'importanza delle foreste, degli alberi e delle sue creature. Due volte! Non c'è da stupirsi che ci stia punendo. Organizza una grande fiera in onore della fata Diana, la custode dei boschi. La gente del regno si riunì per rendere omaggio alla custode dei boschi, la fata Diana. Ma proprio mentre accendevano il fuoco cerimoniale, apparve il grande cinghiale e lo estinse. La gente corse via urlando e strillando. Perfino il re e il principe erano inorriditi. La fata Diana apparve davanti a loro. Accetto le tue scuse, ma state facendo tutto questo solo perché i vostri preziosi raccolti vengono distrutti. Provate a catturare il mio cinghiale. Quando la tua gente vivrà nella costante paura di lui e non saprà come controllarla, non mancherà mai più di rispetto alla foresta e alle sue creature. Andrò a catturare la creatura. No, padre. La fiera era una mia responsabilità. Andrò io a catturare la creatura. Molto bene, ma non sarai in grado di farlo da solo. Dovrai avere una squadra dei migliori cacciatori e guerrieri con te. Quindi i messaggi furono inviati in tutto il regno e persino ai vicini regni per chiedere assistenza ai migliori cacciatori e guerrieri. Nel giorno stabilito tutti si radunarono per incontrare il principe. Potete crederci? Un cinghiale la cui pelle non brucia nel fuoco e non viene trafitto dalle frecce? Un cinghiale che ha distrutto quasi tutti i raccolti di questo regno? Non vedo l'ora di dare la caccia alla creatura. Sono certo che tutto questo sia esagerato. Perché mai il re avrebbe dovuto esagerare e far chiamare migliori cacciatori e guerrieri del suo regno e degli altri regni? Una donna che parla di caccia? Questo è strano. Forse hai perso la strada? Questo è un raduno di cacciatori e guerrieri. Ed è esattamente per questo che sono qui. Stai cercando un marito? Questo non è il momento giusto, sai? Vediamoci dopo aver catturato il cinghiale. Vedremo nella foresta. O sei semplicemente troppo spaventato di vedere una ragazza catturare il prezioso cinghiale e ti nascondi dietro la rabbia. Benvenuti, signori e mia signora. Serve il vostro aiuto. Non ti aiuteremo se verrà anche lei. Sì, se ci sarà lei, noi andremo via. In tal caso, non posso costringervi a rimanere. Se non avete il coraggio di accettare che una donna possa essere potente come voi, o forse di più, allora non avete il coraggio di affrontare il potente cinghiale. Decidete una volta per tutte. Rimanete o andate via. I cacciatori rimasero e la squadra andò a cercare il cinghiale. Lo videro dirigersi nella foresta. Non lo uccideremo. Tutto quello che dobbiamo fare è catturarlo. Quindi immergete tutte le vostre frecce qua. Questo renderà la creatura priva di sensi. Entrarono nella foresta. Salirono sugli alberi o si nascosero dietro le rocce. Un cacciatore lanciò una freccia contro la creatura. La freccia si spezzò in due quando entrò in contatto con la sua pelle dura. Il cinghiale si arrabbiò così tanto che strappò l'albero sul quale era seduto il cacciatore. Stava per attaccare il cacciatore quando Atlanta gli saltò in testa e trafisse il suo fianco con una lancia, con tale velocità e forza che il cinghiale vacillò. Il principe si precipitò fuori e colpì la creatura con un'altra freccia. Il cinghiale cadde privo di sensi. Venne messo in una gabbia di metallo dopo che Atlanta ebbe medicato le sue ferite. Ecco, ora starei bene. Forse la fata Diana sarà contenta. Oh, sì! Mi fa piacere! Sono lieta che tu abbia trattato il mio cinghiale con tanta compassione. E sono contenta di te, principe, per aver saputo vedere il valore di una donna e non averla giudicata debole solo perché è una donna. Vi benedico affinché tutta la generosità sia restituita alla vostra terra. Grazie, grande custode dei boschi. Siamo così dispiaciuti di non averti rispettata. Ora abbiamo imparato la nostra lezione. Non dimenticheremo mai più l'importanza delle foreste, degli alberi e delle sue creature nella nostra vita. Il re era felice e l'intero paese si rallegrò. Diedero un posto d'onore ad Atlanta per aver salvato la loro terra. Ci furono feste e balli tutta la notte. Sei stata meravigliosa là fuori. Anche tu. Hai dato il primo e il più importante colpo. Devo andare via presto. Oh, sì. Ma non puoi restare ancora per qualche giorno? Io... Per favore, mi piacerebbe davvero conoscerti. Questo, se non ti dispiace... Immagino che si possa fare. Possiamo esplorare le foreste insieme. Sicuro, è stato un onore cacciare con te. Sì, anche per me.